Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Quindi professionalità, qualità e autorevolezza. È di questo che vogliamo discutere oggi, vero Luca Dello Jacopo? Sì, e ne discuteremo a partire da Wikipedia. Ma prima ne discuteremo per l'articolo uscito domenica di Gianni Riotta sul web, sulla qualità, sulla difficoltà di trovare contenuti di qualità su una rete che appiattisce tutto e su una rete anche in un certo qual modo popolato anche da ultras che insomma creano agenti del caos, diremmo noi. Si dividono poi in gruppi, in fazioni, sì, e sì, si combattono, diciamo, sui una forum. Una guerra di bande, ecco. Allora noi abbiamo voluto oggi, insomma, dopo aver seguito un po' il dibattito nella puntata di ieri, prendere come punto di partenza Wikipedia, che è un pezzo importantissimo di internet, il quinto sito più popolare, insomma, della rete, e che è la metafora giusta per affrontare questo tema. Anche perché ha tutti gli elementi della nostra discussione. È un'enciclopedia online, è partecipata, gli utenti possono modificare le voci, è uno strumento utilizzato da tutti, sostanzialmente da chiunque ha una connessione, ed è uno dei primi risultati, se noi cerchiamo, insomma, Darwin, se noi cerchiamo qualcuno, uno dei primi risultati che escono dal motore di ricerca di Google è proprio Wikipedia, per cui insomma diventa un soggetto strafondamentale nella costruzione del sapere. Ecco, per chi naviga su internet soprattutto diventa un punto di riferimento importante, perché di fatto è un'enciclopedia sempre accessibile, quello che è il sapere su internet. Però è anche vero che Wikipedia non è così neutrale come può sembrare. Non è l'idea che l'enciclopedia passa dalla carta a internet, perché Wikipedia è fatta in un modo diverso e perché poi esplicita anche delle conoscenze che sono diverse. Sì, è un po' centrale, ma tra l'altro noi chiediamo appunto ai nostri ascoltatori 824-0024 e gli sms 349-238-6666, insomma, di sapere qual è il loro pensiero su questo tema, anche perché la cronaca degli ultimi due mesi, insomma, ha visto Wikipedia un po' attraversata da tensioni, da polemiche, insomma, qualche volontario, perché ricordiamo che è un prodotto completamente che si basa sul volontariato, cioè su persone che non percepiscono stipendi per cambiare le voci. Sì, e diciamo c'è anche una sorta di scontro tra la vecchia generazione che ha iniziato l'opera di Wikipedia, i vecchi. Esatto, e i nuovi giovani invece che entrano, fanno delle modifiche che però i vecchi non accettano. E allora quindi su alcune voci c'è molta tensione. Su alcune voci, che anche su alcuni personaggi, perché alcune voci spesso sono personaggi che si trovano la loro storia deturpata, cambiata, scoprono insomma che qualcuno è entrato per modificare o per insomma, scrivere cose sbagliate, insomma, sulla vita delle persone, e giustamente cercano di cause milionarie, partono altre. E stanno anche diminuendo i contributi secondo alcuni, perché Wikipedia, ricordiamo che ha 3 milioni di voci in inglese, 600.000 in italiano, però sembra che il numero di contributi stia diminuendo, quindi manca l'interesse, oppure le voci sono già vanno già bene in effetti, quindi non c'è bisogno ulteriormente di modificarle. Qua dice Alberto, scrive un sms subito, non siamo ancora partiti, affidabilità oscena, chiamare enciclopedia del sapere un oggetto del genere è sbagliato, sono in completo disaccordo. Adesso vediamo di capire, anche perché insomma la storia di Wikipedia, vedremo nel corso della puntata, ha moltissime sfaccettature non conosciute, tra l'altro, e lo facciamo con Frida Brioschi, presidente appunto di Wikimedia Italia. Buongiorno Brioschi. Buongiorno. È tornata a trovarci, insomma il momento è caldissimo, anche a vedere quello che si sta scrivendo sulla rete. Sentiamo però prima di iniziare l'intervista una scheda di Luca Dello Jacopo. Frida Brioschi è presidente di Wikimedia Italia. Volontariato e cultura sono le due scelte di chi contribuisce a Wikipedia, l'enciclopedia online aperta al pubblico. Frida Brioschi è stata tra i fondatori della versione in italiano, lavora nel settore informatico e nel tempo libero segue le attività di Wikipedia. Nel 2009 ha ritirato il premio giornalistico Voltolino come presidente di Wikimedia Italia. Nonostante ciò, la principale fonte di sapere su internet attraversa acque tempestose. Crescono le tensioni tra vecchi e nuovi wikipediani sulle nuove modifiche alle pagine. L'enciclopedia online è stata anche chiamata sul banco degli imputati da chi si è sentito diffamato. Eppure Wikipedia resta un'opera da record. Gli articoli in inglese sono 3 milioni e le pagine in italiano 600.000. Per dimensioni, ha superato la prestigiosa enciclopedia britannica. Al primo posto tra gli articoli più letti c'è la parola Wiki, il software alla base di Wikipedia, poi i Beatles e al terzo gradino il cantante Michael Jackson. Vabbè, al di là di Michael Jackson, insomma, a caldo, cosa sta succedendo dentro Wikipedia, Brioschi? Ma io tenderei a minimizzare, nel senso che non sta in questo momento succedendo niente di molto diverso da quello che è successo in tutti questi anni. L'enciclopedia cresce e le persone continuano a contribuire, tra l'altro sull'edizione italiana in maniera assolutamente costante, non abbiamo notato nessuna diminuzione nel calo dei contributi e continuano a esserci nuove persone che scrivono nuove voci e che talvolta sì, certo, si scontrano con lo zoccolo duro, ma per una questione di, come dire, di novità, di persone che ancora non conoscono esattamente il progetto, che magari ne hanno sentito parlare ma non sanno a fondo di che cosa si tratta e quindi sperimentano e provano a partecipare prima ancora di capire esattamente che cosa stanno facendo. Ecco, quali sono le voci un po' più comunque complesse da gestire? Quelle dove magari intervengono delle persone che la pensano diversamente, magari sono quelle sul calcio oppure quelle sulla politica, sui personaggi famosi? Beh, di solito sono quelle che scatenano sempre le persone, le passioni delle persone, per cui ci sono anche le voci religiose, in quasi sempre le voci politiche, ma soprattutto moltissimo le voci delle persone e le biografie dei viventi. Però insomma è un dato di fatto che dopo una partenza è stata lanciata Wikipedia nel 2001, per cui insomma sono passati 8-9 anni, però all'inizio insomma il fenomeno da raccontare sui giornali, che bella, è arrivata l'enciclopedia online, un nuovo modo di approcciarti a sapere, poi in un certo qual modo, quantomeno nell'immaginario, insomma Wikipedia è diventata l'enciclopedia da consultare. Non è un caso che molte enciclopedie di carta sono entrate in crisi, in una crisi che non è certo dettata dalla qualità dei contenuti, ma da un formato, dall'avvento di internet, insomma anche da ragioni che poco o nulla hanno a che fare con appunto la qualità dei contenuti. E adesso Wikipedia è un po' al centro di ragionamenti, diciamo. Il primo ragionamento è insomma chi non è tanto legato al giocatore che viene più o meno descritto male, ma insomma chi garantisce la qualità. Addirittura c'è qualcuno sulle colonne del Financial Times che proponeva o suggeriva di aggiungere dei redattori esperti, cioè di creare una sorta di intelligenza all'interno di Wikipedia per in un qualche modo, per in un certo qual modo certificare i contenuti. Da me andare contro le idee del Financial Times, però questa non è più Wikipedia quella che tutti propongono di avere un'enciclopedia, cioè non è più l'enciclopedia della rete scritta da tutti, aperta a tutti, vuol dire avere delle persone qualificate che svolgono un'operazione di controllo significa innanzitutto avere un comitato, un qualcosa che assomiglia a una redazione o un editore che sia in grado di scegliere queste persone, altrimenti ci scontreremo domani sul valore che possono avere i controllori. E comunque in questo momento è un'opera talmente vasta che francamente vedo difficile che qualcuno possa iniziare da oggi a valutare i contenuti di Wikipedia. Ecco, l'anonimato su Wikipedia che vantaggi dà in alcune situazioni, ma anche poi che limiti pone? Non saprei, detto molto onestamente, perché non l'ho mai considerato un anonimato. Su Wikipedia le persone si costruiscono una loro reputazione, per cui anche se un professore universitario, ce ne sono tanti, si presenta sotto un nickname, questo non svaluta minimamente quelli che sono i loro contributi. Ecco, però Luca, cioè, il tema è anche quello di cercare di capire, cioè si sta anche cercando di capire in qualche modo come distinguere o come far capire quali sono le voci assodate, quali sono le informazioni, insomma, che possono essere prese completamente per buono e invece le parti che sono invece più oggetto di discussione. Beh, di positivo c'è che hai le fonti, cioè su Wikipedia puoi controllare quali sono le fonti delle informazioni e lo puoi fare in un modo molto semplice, cioè andando a vedere in basso da dove sono state prese le informazioni. Però appunto c'è un altro vantaggio che è meno noto e che è quello che riguarda la cronologia, cioè a differenza di un'enciclopedia tradizionale tu puoi vedere come è stata fatta una voce. Ah, certo. Cioè puoi andare a vedere le singole persone o diciamo i singoli indirizzi IP, indirizzi internet se non hai il nome della persona, puoi andare a vedere quindi pian piano come è stata montata la voce. Questo richiede quindi un lavoro di scavo nella voce di Wikipedia. Però appunto resta, potrebbe, ecco, e questa domanda magari la rivolgo anche a Frida Brioschi, nel caso degli indirizzi internet però alcune volte cioè non sappiamo poi di fatto chi potrebbe, cioè chi fa poi le modifiche a determinate voci sensibili. Infatti, il tema, ci sono due temi. Il primo tema è che sarebbe bello se, visto che Google riporta immediatamente, Google è il motore più usato, più popolare, però insomma se io devo cercare qualcosa o sono un ragazzino di quinta elementare o alle medie, insomma devo fare una ricerca via internet, non so se alle medie fanno ricerche via internet, però facciamo finta che devo fare le ricerche alle medie, metto un nome in un motore di ricerca, esce Wikipedia, prendo, copio, incollo ed è tutto buono. Di fatto non è così, perché abbiamo capito che la creazione, la fondazione, il DNA di Wikipedia fa sì che ci siano delle parti che sono oggetto di continua revisione, però sarebbe bello riuscire a distinguere, insomma, quando è nato Darwin, che insomma quello si sa con certezza, da invece i temi del dibattito sul creazionismo. Non so se mi sono spiegato, Brioschi. Beh, sì, quello che noi cerchiamo di fare è mettere in guardia chi consulta le voci dell'enciclopedia in almeno due modi diversi. Se la voce che uno sta consultando ha dei problemi evidenti, in testa alle voci è presente un banner che avvisa sul genere di problemi che sono stati riscontrati. Dall'altra parte cerchiamo di fare un minimo di formazione e di spiegare quanto è affidabile Wikipedia. Cioè nessuno è in grado di garantire quanto sia affidabile, che quindi deve essere solo unicamente un punto di partenza. Per chi è un utente abituale, di solito le voci ben costruite si riconoscono abbastanza facilmente, perché oltre che riportare le fonti in fondo, all'interno del testo è un continuo di citazioni sulle fonti che sono state utilizzate, in modo che uno possa innanzitutto approfondire altrove la materia che sta studiando e dall'altra parte controllare effettivamente che non siano fornite delle informazioni scorrette. Ecco, in questa puntata io faccio un po' l'avvocato del diavolo, in effetti, e un'altra questione però è anche quella del vandalismo, esiste il problema di persone che vanno autonomamente a cambiare o a modificare le voci e diciamo a rovinarle. Ecco, quanto siete pronti ad affrontare questo problema e quanto poi può essere diffuso nella parte italiana? E quanto si può affrontare poi questo tema? Perché questa è anche una delle leggi non scritte della rete che salta fuori in continuazione. Dunque, ci sono un certo numero di strumenti tecnici e un certo numero di persone che monitorano in continuazione i vandalismi. Di solito i vandalismi banali, per cui viene cambiata una parola, viene cambiata il senso di una frase, viene inserita una parolaccia, vengono eliminati molto in fretta, entro 5 minuti al massimo. Ci sono alcune cose invece, se viene cambiato sistematicamente e ripetutamente il contenuto di una voce, in alcuni casi viene individuato proprio l'autore e quindi viene bloccato, ma ci sono alcuni vandalismi che invece per forza di cose rimangono. Sebbene le maglie e il controllo siano piuttosto serrati, non sempre tutto viene corretto. Leggo un po' gli sms che stanno arrivando, tra l'altro ricordo il numero verde 824-00-24-349-238-6666, gli sms. Sandra Satto lo dice, noi facciamo in tempo reale, provate a leggere la voce pari opportunità per avere un esempio di voce che può far discutere. Adesso Luca Dello Iacovo si mette bravo a controllare, però il tema mi sembra che sta sollevando è che insomma, di fatto, come è normale, come spesso accade, ci sono dei temi su cui si può fare ricerca, ci sono delle verità storiche assodate o più o meno assodate, e poi quando si entra nel campo della storia contemporanea, della politica e perché no anche del calcio, degli sport più popolari, insomma, parlare di enciclopedia, ed è forse questo uno dei rischi alla base di tutto, cioè quando mettiamo un politico su Wikipedia o un personaggio vivente, la storia non ha ancora emesso un giudizio sulla persona, però giustamente ogni utente magari ha una sua idea e perché no, se trova un luogo dove poterla esprimere, perché non la deve esprimere? Perché è contro le nostre regole. Noi cerchiamo di raccogliere i fatti nella maniera il più neutrale possibile ed è per questo che siamo sempre molto attenti, soprattutto nelle biografie dei viventi, a citare il maggior numero possibile di fonti, in modo che non sia mai la nostra opinione personale, ma siano opinioni magari di qualcuno che ha il diritto di esprimere un'opinione e poi che siano soprattutto fatti. Però la parola enciclopedia che sposta un po', infatti alcuni sms dicono esattamente quello che sta dicendo lei, Brioschi, cioè un ascoltatore dice mi scusi ma su un giornale, un libro è tutto buono? No. Certamente no, però un giornale è in un certo senso espressione di una parte. Wikipedia è espressione di una moltitudine e proprio per questo è una responsabilità maggiore. Tra l'altro anch'io sto giocando un po' a fare l'avvocato del diavolo come il buono Luca Dello Iacovo. Brioschi sa benissimo che siamo sostenitori della prima ora, però un tema c'è. Ma mi conceda, sono abbastanza dell'idea dell'SMS, è facile puntare sempre il dito contro la rete, l'ho fatto anche Riotta settimana domenica, dicevate, domenica. Adesso non ricordo, io l'ho letto online. La vera questione è che anche quando leggo un giornale, a seconda del giornale che vado a leggere, è più o meno affidabile, anche quando leggo un libro, e non sempre dipende solo dall'editore, ma a volte anche dall'autore stesso, se è una cosa interessante, affidabile o meno. Però forse c'è davvero una differenza, e cioè nel caso di un'enciclopedia tradizionale cartacea, noi appunto c'è una struttura di controllo e questo controllo è esplicito, ecco, nel caso di Wikipedia è più invisibile, è anche una questione di che cosa si vede, perché in un'enciclopedia importante c'è qualcuno che ci mette la faccia, diciamo, sì, magari ma questo... su Wikipedia non è così, io non vedo chi è che fa le modifiche, non so esattamente quali competenze hanno, anzi se non erro in effetti chi si occupa delle singole aree di Wikipedia non ha una specializzazione in quell'area, cioè non è detto che chi segue l'area di medicina sia specializzato in medicina, ma è semplicemente una persona che controlla se c'è una coerenza tra quello che c'è scritto e quello che dice la fonte. Tra l'altro Luca, tu hai provato a entrare a modificare, ci racconti l'avventura? Allora, penso che è bello, a differenza di un'enciclopedia tradizionale, quello che è interessante di Wikipedia è che chiunque poi può entrare davvero. Allora, per farlo, e se da casa volete provare, dovete andare su una qualsiasi pagina di Wikipedia, con buone intenzioni ovviamente, dovete andare su una qualsiasi pagina di Wikipedia e cliccare su modifica che è scritto piccolo in alto. Quanto piccolo? Un po' piccolino, è scritto un po' più grande, non sarebbe stata una cattiva idea. Lo segnalerò. Cliccando su tra l'altro devo dire che insomma Dello Iacovo ci vede bene, insomma è normo, dotato, è tutto a posto. Cliccando appunto su modifica si apre un riquadro e all'interno di questo riquadro c'è un testo. Si può quindi entrare e scrivere in questo testo, che è una cosa magari un po' semplice per un ragazzo, forse per una persona più adulta non è semplicissimo, anche perché bisogna utilizzare dei si chiamano marcatori e quindi diventa un po' complesso poi magari segnalare una fonte. Insomma, non mi è un casino. Non è proprio un casino, però bisogna impegnarsi. Quasi. Devi essere molto motivato se sei una persona con una certa età. E va detto, insomma, che il nostro Dello Jacopo è uno che in rete ci sta docilmente, senza fatica, che è in grado di stare davanti a un PC per quante ore di seguito senza bere un bicchiere d'acqua. Insomma, abbiamo messo in campo un nostro campione. Leggo altri due sms, secondo me importanti. Angelo da Caserta: può darsi che le voci come pari opportunità e scienza della comunicazione badano migliorate, ma la questione è: si trova di meglio in rete gratis? Questo è un tema vero, cioè è un tema forte, e forse non l'abbiamo ripetuto abbastanza. Cioè, Wikipedia resta gratis completamente. Non cambierà questo? No, questo assolutamente non cambierà, né che è gratis né che non ha pubblicità. Cosa succederà, cosa sta succedendo, cosa non succederà a Wikipedia? Tra l'altro, Frida Brioschi, Wikipedia o Wikipedia? Io la chiamo Wikipedia, la maggior parte degli italiani Wikipedia, ma abbiamo censito, credo, 8 diverse pronunce e vanno bene tutte. Cioè, Wikipedia non dice nulla a proposito dell'accento? No, dice chiamatela come vi pare. Ah beh, questo è già buono. Arrivano alcune segnalazioni dai nostri ascoltatori, tra l'altro ricordo il numero verde 824 0024, 349 238 6666, non è lo stesso numero, dopo 24 ci si ferma un attimo, l'altro è l'SMS. E insomma, la segnalazione è: guardate che ci sono un sacco di altre risorse oltre Wikipedia. Una segnalazione è www.segnaweb.it. Luca Dello Jacopo lo sta già dragando e... È bello, sono delle risorse internet selezionate dai bibliotecari italiani, quindi si tratta di link e di una collezione di link, una volta si sarebbe chiamata directory, in cui si possono trovare delle informazioni su affari, su attualità, su informatica, su medicina, e in questo caso a selezionare le informazioni ci sono dei bibliotecari. Ah, ecco, allora, prima di passare però a Lorenzo Visconti, che è il fondatore di Sveltopedia, volevo chiudere il discorso con Frida Brioschi, perché la cosa che ci domandavamo io e Dello Jacopo durante la borsa è: ma le cause pendenti che stanno interessando Wikipedia non è che sono il grimaldello per poi mettere un po' le mani, controllare in qualche modo questa enciclopedia che, ricordiamo, sta diventando è un pezzo della rete ed è in qualche modo qualche cosa con cui fare i conti quando si ragiona dell'evoluzione del sapere su internet? Se fosse solo un modo per controllare Wikipedia sarei quasi una persona tranquilla, se fosse invece un modo per iniziare a controllare la rete in Italia sarei molto terrorizzata. Mi sento d'accordo. Abbiamo una telefonata, Andrea da Rimini, buongiorno. Buonasera. Buonasera, anzi, giustamente. Dunque, purtroppo non ho potuto ascoltare gli ultimi minuti di trasmissione. Comunque, quello che volevo dire era questo: non capire bene questa necessità di controllo, nel senso che l'enciclopedia per forza di cose non è oggettiva, cioè non è come il dizionario che quando spiega una voce, la voce è oggettivamente quella. L'enciclopedia per forza di cose prende, coinvolge l'universo intero, l'universo del sapere, come direbbe Eco. Quindi è sempre soggettiva, indipendentemente che sia su internet o su carta, cioè il modo di trasmetterla, di comunicarla non fa differenza, e indipendentemente che ci siano o meno meccanismi di controllo, editori o quant'altro. È vero, ma sai qual è, Andrea, il problema? È che nel mondo fisico, ammesso che ci sia ancora mondo fisico su questi temi, io scelgo la mia enciclopedia. Quello che sta succedendo con Wikipedia o Wikipedia, no, abbiamo visto che si può dire in tutti e due i modi, è che insomma, se io cerco qualcosa su internet, uno dei primi tre risultati, diciamo, è Wikipedia. Per cui è vero che, come dici tu, insomma, l'enciclopedia non è il vero, non è esattamente espressione, non è qualcosa scritto sulla pietra, però è anche vero che oggi, se cerco informazioni e utilizzo gli strumenti della rete, in qualche modo vengo sempre catapultato lì. È questo che la rende un po' diversa dalle altre enciclopedie. È vero, quello sicuramente, però in ogni caso, cioè, la consapevolezza del fatto che si sta accedendo a un sapere che in qualche modo è soggettivo e quindi può avere delle falle, delle pecche, può non essere perfetto, la si dovrebbe avere, come dire, a priori, sia quando si avvicina alla scelta consapevole e volontaria di un supporto cartaceo o quant'altro, sia quando viene, tra virgolette, proposta da un motore di ricerca e porta Wikipedia. Ecco, siamo d'accordo, però c'è anche un punto, cioè che per quelli che vengono chiamati nativi digitali e quindi i ragazzi che sono nati, diciamo, dopo il 1980, Wikipedia è di fatto una fonte di informazione, è l'unica fonte di informazione, la prima fonte di informazione spesso, perché navigano su internet e se cercano qualcosa capiteranno quasi sempre su Wikipedia. Sì, detto questo ha ragione Andrea quando dice però insomma bisogna anche abituarsi a non cercare certezze più, cioè non è che si deve prendere per oro colato tutto, è anche una forma mentis ed è anche un approccio giusto verso il sapere. Grazie Andrea, io a questo punto però introdurrei Lorenzo Viscanti, buongiorno. Buon pomeriggio. Tra l'altro Frida Brioschi resti con noi che probabilmente ritorniamo anche a ragionare su Wikipedia. Lorenzo Viscanti, fondatore di Sveltopedia, sentiamo di che cosa si tratta nella scheda. Due ore per lanciare un'enciclopedia satirica. A tempo di record Lorenzo Viscanti, 30 anni, ha progettato Sveltopedia. Ha unito il modello di Wikipedia e la rapidità di comunicazione del microblog Twitter. Ogni definizione non supera i 140 caratteri. Le prime 100 voci sono state scritte da Giuseppe Genna, scrittore e blogger. In breve tempo sono arrivati centinaia di contributi. Per esempio, su Sveltopedia, José Mourinho è definito come l'Oriana Fallaci del calcio italiano. Lorenzo Viscanti ha una laurea in ingegneria ed è cofondatore di Mica Mai, una società per lo sviluppo di progetti multimediali. La sua azienda ha due sedi a Milano e Londra. Cioè, ci mancavate solo voi. Cioè, già è un momento difficile per Wikipedia. Viscanti? Sì. Ma lì qual è la logica? Cioè, scherziamo, giochiamo, è un gioco? Sì, è un gioco nato tra persone che lavorano e vivono sul web e quindi unendo un po' a quelli che sono i due trend principali. Da un lato la conoscenza collettiva di Wikipedia, che ha cambiato il modo in cui ci informiamo e veniamo a sapere di cose interessanti in rete, dall'altro lo status dei social network, che è un'altra forma di produzione che facciamo tutti i giorni. Come gioco, unendo queste due cose, è nata un'enciclopedia, ovviamente senza pretese enciclopediche, in 140 caratteri, come i messaggi di Twitter, ovvero gli status. Ecco, si vedono anche dei messaggi molto belli, o simpatici, ecco, che sono nati dalla creatività delle persone, perché poi devono scrivere in 140 caratteri e quindi devono... Tosta, È dura, è quasi una forma zen. Allora, per esempio la parola carriera viene definita in 140 caratteri come il percorso effettuato salendo sul carro del vincitore. Ah, ecco, bene. Poi... oppure Calabria, lo stivale preso di punta e nemmeno è di Prada. Ecco, ma tra l'altro sono nate anche in dialetto, se non sbaglio. Cioè è nata poi una grandissima letteratura di enciclopedia che in un certo qual modo hanno un po' sbeffeggiato Wikipedia. La cosa che volevo chiedere a Viscanti è che, vabbè, voi avete scherzato sostanzialmente, ma insomma Wikipedia la ritenete in questo momento in pericolo, in discussione? Allora, in questo momento si parla tanto di web, controllo del web e contenuti. Da questo punto di vista anche noi volevamo dare un contributo satirico, appunto, per far capire quanto è importante la produzione di contenuto in rete e quanto è importante poterla esprimere liberamente. Nel nostro caso è satira, quindi cerchiamo di tenerla cattivella, tagliente, ma sicuramente non volgare e non fatta di insulti. Questo è anche un modo per riflettere proprio sul contenuto, l'importanza del contenuto e di difendere la libertà di pubblicazione di contenuto in rete. Ecco, voi mi hai detto in precedenza che in effetti selezionate però alcune voci, ecco, quante ne buttate via in effetti di quelle che non andrebbero pubblicate perché sono troppo offensive o sono fuori tema? Il numero di voci pubblicate è abbastanza ridotto rispetto ai contributi che ci arrivano. Dobbiamo fare una selezione, come ho detto prima di poterle mettere sul sito. Ce ne arrivano alcune centinaia al giorno, in media attorno ai 300 proposte di voci al giorno. Noi ne pubblichiamo un numero che è tra le 10 e 15. A voi non vi denuncia nessuno, però? Per il momento no. No, per cui siete non c'è nessun calciatore che... no? No, cerchiamo di essere attenti nel preservare un tono satirico, ma nel non esagerare, come è giusto che sia. Per il momento va bene. Sarebbe carino se, insomma, chiedete di entrare dentro a Wikipedia, potrebbe essere un gemellaggio strano. Però non vi, secondo me Frida Brioschi non vi vorrebbe mai, vero Frida? Beh, dipende, ci rilasciano i contenuti con licenza libera? Ah, cioè, vi rilasciano i contenuti? Sono tutti con una licenza Creative Commons che ne consente il riutilizzo e la modifica libera. Quindi è un gemellaggio, in effetti, in questo momento c'è stato un gemellaggio. Se lo dicono in radio, poi quando si mette giù il telefono non si dicono più nulla. Brioschi, un'ultima cosa prima di passare a Vittorio Alvino. Anzi, passiamo subito a Vittorio Alvino, lo presentiamo e poi lo intervistiamo nella seconda parte. Sentiamo la scheda. Sapere chi sono e cosa fanno i politici italiani è l'obiettivo del sito Open Polis, fondato 4 anni fa a Roma. Vittorio Alvino è stato uno dei promotori dell'iniziativa. Lavora per progetti di comunicazione online, ma ha dedicato il suo tempo libero allo sviluppo di un archivio dei rappresentanti italiani. La community di Open Polis aggiorna il sito segnalando le dichiarazioni dei politici. La banca dati è una ricchezza. Vittorio Alvino e il suo team hanno fondato una società, la DEP, per fornire informazioni aggiornate sulla politica italiana ai suoi clienti. L'anno scorso è stato lanciato anche il progetto Open Parlamento, all'interno del quale vengono evidenziati i principali atti legislativi, i parlamentari più attivi e gli assenteisti. Pronto? Non la sento, provi a alzare la voce. Pronto? Ecco, ci siamo, adesso ci siamo. Allora, resti un attimo con noi perché sul tema della politica, che è uno dei più delicati, vorrei chiedere prima una cosa a Frida Brioschi. Quanto sono deturbate, quanto sono attaccate, quanto sono modificate le voci della politica in Italia? Dipende dai periodi. Quando succedono, quando ci sono le elezioni, sono modificate tantissimo, e anche quando succedono cose particolari o quando ci sono processi, insomma. Ma quando sono al centro dell'attualità. Le chiudete voi? Dopo una serie di vandalismi sì, le chiudiamo per un certo periodo e poi le riapriamo. Ma l'impressione qual è? È quella che siano gli stessi attori, cioè gli addetti ai lavori o quantomeno gli staff politici che vanno un po' a modificare o siano poi un altro genere di persone? No, spesso e volentieri è il cittadino comune che usa la voce di Wikipedia per, non dico per tirare acqua al suo mulino, ma a volte anche come un muro del pianto per sfogarsi. Allora, prima stavamo io dello Jacopo, sono Luca Tremolada, stavamo appunto commentando che su internet non c'è nulla simile a Open Polis, nel senso una banca dati che insomma comprende, censisce, descrive la politica italiana nel suo complesso non c'era finora. Qual è la logica di questa iniziativa, Alvino? Dunque la logica è quella come dire di provare a utilizzare la rete non soltanto per produrre dei contenuti originali, ma insomma per mettere in gioco la qualità dei cittadini, quindi di cittadini che possono essere non più soltanto elettori, ma che possono contribuire a fornire informazioni sulla politica, che possono contribuire a controllare la politica. Ecco, io ho il sito qui di fronte, quello di Open Polis, diciamo, ecco, agli ascoltatori che permette di trovare i rappresentanti politici di una zona. Come funziona? Si scrive il nome di un posto, che può essere Roma o Milano o Napoli, e appaiono i rappresentanti della zona, e appaiono i rappresentanti poi eletti, diciamo, in diverse occasioni. Il lato anche interessante di Open Polis è che riporta le dichiarazioni dei politici. Ma queste dichiarazioni arrivano dalla community di Open Polis, Alvino? Sì, diciamo la questione che abbiamo voluto provare a risolvere è quella di rispondere alla domanda essenziale: chi ci rappresenta? Visto che ci sono varie occasioni elettorali durante l'anno, nel corso degli anni, e ci sono vari siti che dicono e raccolgono informazioni sui politici, non c'era un luogo unico dove si potesse sapere chi ci rappresenta dal comune fino al Parlamento europeo, e questo è innanzitutto Open Polis, che utilizza dei dati ufficiali che sono forniti dai, appunto, dai siti istituzionali e sono però poi anche aggiornate dai contributi. Quindi vediamo di capire, le dichiarazioni dei politici voi le prendete dagli organi di stampa, no? No, innanzitutto i dati dei politici, cioè i dati anagrafici, i dati delle elezioni, le liste elettorali e altro sono fondamentalmente di fonte ufficiale, più aggiornate rispetto alle fonti ufficiali, perché attraverso i contributi degli utenti si riesce a monitorare la situazione. In più le dichiarazioni sono invece inserite direttamente dagli utenti, anche lì la fonte, l'obbligo per la pubblicazione è quello di fornire il link alla fonte e quindi di fornire un riscontro diretto. Quindi non c'è l'anonimato, nel senso io non metto in bocca al tal politico quello quello che mi passa per la testa, cioè se attribuisco determinate dichiarazioni a un politico poi devo essere anche in qualche modo rintracciabile. Devi fornire, innanzitutto si possono inserire dichiarazioni soltanto se si è utenti registrati al sito. Un semplice lettore, tutti i dati sono liberamente accessibili, però per pubblicare dei contenuti bisogna essere registrati. Per pubblicare il contenuto bisogna sempre fornire un link alla fonte e chiunque può riscontrare se quel link è reale oppure no. E quindi può riscontrare se è veritiera o meno quella dichiarazione. Nel caso non lo fosse, provvediamo noi gli amministratori del sito a rimuovere il contenuto. Quindi c'è un ruolo di contributori che è diffuso per tutti gli utenti, ma anche tutti i lettori possono fare una segnalazione di errori, di abusi o di... Ecco, quante sono le persone che partecipano o che hanno partecipato finora al progetto Open Polis? Dunque, finora abbiamo raccolto circa 10.000 iscritti e c'è una percentuale intorno al 10% di contributori attivi, e tra questi alcuni super utenti che pubblicano quotidianamente dichiarazioni, che inseriscono nuovi contenuti e che fanno segnalazioni. Ecco, pensate poi di allargare questo servizio anche ad altre cose oltre alle dichiarazioni, quindi non so, alla carriera oppure ad altri aspetti, ecco, della vita dei rappresentanti, tanto più che un'altra iniziativa che avete lanciato è quella lì di Open Parlamento, dove Open Parlamento è dedicato esclusivamente a Camera e Senato e dove vengono monitorate, diciamo, le presenze o le assenze dei rappresentanti politici. Ecco, qui qual è il bilancio? Open Parlamento non si limita a monitorare l'attività, ma a fornire anche strumenti a tutti gli utenti per monitorare a loro volta quello che avviene ogni giorno in Parlamento, ma anche cosa fanno i politici che più interessano. E quindi si possono ricevere direttamente nella propria email degli aggiornamenti quotidiani su quelli che sono gli argomenti. Ah, non le chiedo qual è il bilancio, perché magari non vuole esporsi. Chiunque quale bilancio? No, del bilancio delle assenze e delle presenze, insomma, anche di... No, come no, ci esponiamo, e come, già l'anno scorso, quando in occasione della pubblicazione del sito abbiamo anche pubblicato un rapporto che si chiama Camere Aperte, che fa il bilancio annuale di quelle che sono le attività dei parlamentari e anche le classifiche dei più attivi e dei più presenti. Diciamo che non sono molto confortanti, nel senso che c'è un piccolo gruppo, intorno al 10% di deputati e senatori che sono attivi e presenti, e c'è una stragrande maggioranza che sono abbastanza poco attivi e molto poco presenti. Ecco, sul sito sono anche pubblicati i documenti e gli atti che vengono poi affrontati in Parlamento. Ecco, vengono scaricati oppure restano soltanto lì? Cioè c'è un interesse attivo da parte della gente di leggere questi documenti, di informarsi, oppure resta soltanto una bacheca che si guarda e che in effetti è una vetrina sulle attività parlamentari? Diciamo che su questo abbiamo qualche invece elemento di interesse, perché non soltanto la funzione del sito non è soltanto quello di informare e quindi dare accesso ai contenuti, ma anche mettere a disposizione gli strumenti per partecipare a quello che avviene in Parlamento, e quindi ogni atto può essere anche votato dal singolo utente, ci si può dire favorevoli o contrari, e si può commentare quell'atto. esatto, e si può anche aggiungere una dichiarazione. Su tutto questo, queste attività abbiamo comunque decine, in alcuni casi centinaia, in alcuni casi anche migliaia di utenti che sul singolo atto si pronunciano e dicono cosa ne pensano. Alvino, quanto si è arrabbiata la politica per questa iniziativa? O quanto invece fa finta di nulla? Perché poi di fatto in televisione la politica sono semplicemente delle dichiarazioni, si commentano le dichiarazioni, si crea la polemica, si ragiona su quello che è stato detto. Questi strumenti fanno qualche cosa di più, forse a mio parere anche di più intelligente, perché vanno insomma a snidare il politico su quello che è il suo territorio, cercano di creare una relazione tra il territorio e quello che dice in Parlamento, e poi insomma monitora l'attività del parlamentare e non quindi solo del portavoce o della persona che sta sui giornali. Tanto più che ti dà anche un indice di attività, per ogni parlamentare tu puoi vedere sia l'indice di attività di quel parlamentare, le sue presenze, le sue assenze, come abbiamo detto, le missioni, la circoscrizione a cui appartiene e, come stava dicendo appunto prima Alvino, anche gli utenti che lo seguono, cioè quali sono quelle persone che ne seguono l'attività online. Insomma, fa finta di niente la politica o vi ha chiamato? Qualcuno vi ha chiamato? Anche qui i comportamenti sono stati variegati. Diciamo che la pubblicazione del rapporto, che è stata insomma la prima volta in cui i politici italiani sono stati oggetto di valutazione, no? Perché era la prima volta che si provava a elaborare criteri in qualche maniera, come dire, affidabili, perché si tratta di elaborazioni di dati ufficiali, quindi non contestabili come tali. Le reazioni sono state, di quelli che stavano nella parte bassa della classifica, abbastanza irritate. Insomma, abbiamo avuto anche qualche caso di minaccia, di querela o cose di questo tipo. Ma finora non avete avuto querele comunque? No, soltanto minacce, anche perché poi insomma, quando si sono resi conto che si trattava di elaborazioni di dati forniti da loro stessi, cioè da Camera e Senato, evidentemente hanno capito che non c'era molto da contestare in questo senso. Però diciamo che ci sono stati anche segnali di interesse da parte di chi evidentemente pensa che questo può essere uno strumento di relazioni con i cittadini, di un modo per dare ulteriori canali e strumenti di comunicazione con chi è interessato al proprio lavoro. Poi il tema è anche un po' quello, se mi consente, delle spalle grosse, nel senso che adesso siamo in chiusura a pochissimi secondi, però se una querela arriva a un giornale, insomma, di solito un giornale, se è grosso, se è importante, ha insomma gli strumenti per difendersi. La mia domanda è su un sito come il vostro, per cui insomma noi cercheremo di seguirvi sempre anche per capire quanto siete tirati per la giacca. Insomma, le nostre spalle non sono, la nostra volontà è tanta, ma le spalle non sono così larghe, così possenti, sì. Grazie. Grazie Vittorio Alvino, insomma ci siamo anche noi qui, scriviamoci, sentiamoci, se succede qualcosa ditecelo. Io ringrazio Lorenzo Viscanti, Frida Brioschi e soprattutto Luca Dello Jacopo, che avrà detto una quarantina di ecco oggi, per cui oggi poi li contiamo dopo sul podcast. Linea alle news. Problemi per il servizio clienti di Nexus One, il cellulare di Google in vendita da una settimana. Il telefonino può essere acquistato unicamente su internet, ma l'unico contatto disponibile per l'assistenza è un indirizzo di posta elettronica. Sono arrivate inoltre lamentele per la copertura della rete di terza generazione. Le proteste degli utenti si sono diffuse rapidamente su internet. Google ha replicato assicurando che le risposte arriveranno entro 48 ore. Nexus One costa $529 ed è stato presentato come rivale dell'iPhone alla recente fiera di elettronica CES a Las Vegas. Da venerdì sera a sabato pomeriggio le persone sono più felici. È il risultato di una ricerca della Virginia University. Per 3 settimane gli scienziati hanno osservato un campione di 70 persone dai 18 ai 62 anni, misurandone gli stati d'animo. Ognuno ha descritto le attività e le sue emozioni, indicando l'intensità delle sensazioni in una scala da 1 a 7 punti. Hanno descritto sentimenti di gioia, felicità, tristezza, ansia e hanno segnalato anche malesseri fisici. Ha trionfato effetto weekend. Nel fine settimana le persone sono più serene. Farmville dona $1 milione in beneficenza. Il gioco più popolare di Facebook ha versato un cospicuo assegno per gli alunni delle scuole elementari di Haiti. La somma è stata ricavata dalla vendita di beni virtuali come semi e alberi digitali. Sono oggetti che gli utenti di Farmville acquistano per coltivare i terreni delle fattorie su internet. Secondo le dichiarazioni di Zynga, la società che ha progettato il videogioco Farmville, la cifra donata in beneficenza ammonta alla metà dei ricavi ottenuti con l'acquisto di oggetti digitali. 20 Super Jumbo A380 in un anno. È l'obiettivo del gruppo Airbus per il 2010. Il programma del consorzio aerospaziale è di incrementare la produzione fino a 2 aeroplani al mese entro l'anno. A lungo termine, Airbus prevede di far uscire dagli hangar 4 A380 al mese. Il gruppo ha sede a Tolosa, in Francia, e conta 57.000 dipendenti.